Friuli nel mondo, 93esima trasmissione dedicata agli emigrati. Buon tempo antico. Vogliamo, cari amici lontani, farvi ascoltare alcuni racconti di scrittori friulani che con linguaggio vivo ed espressivo fanno rivivere tempi passati nei quali l'antica saggezza popolare e il buon umore accompagnavano la dura ma semplice vita patriarcale dei nostri avi. Ottavio Valerio dirà ora alcune composizioni di Riedo Puppo, di Mario Candotti e di Don Giuseppe Marchetti. Compromesso. Cumò Ludoprin ogni altre di il compromesso. Al Guviar, in province, in comune, ma tim pindaur nessun saveve nanche ce cagliere. A Moruzpo non lo aveva nanche mai sintut nomenà. All'è stato un macor a proponilo, rico macor consigliere in comune, e al fo accettat lì per lì. Une par via che nessun saveva di precis ce cagliere e nessun rischia a opponisi. E une, che rico, aveva une teologhe che ti piturava di srobis che tu scugnivi giurà cagliere in veris. Difatti lui diceva che quel lì aveva tutti i numeri per la predi. Quanto al capital cas, rico agliere conseir. E sindic agliere un colono dal cont Globar, perché che a Moruz i cont Globars non accettavano mai di diventare sindics. A scelgevin invece un loro colono e lo facevin sta lui. E ho potesta sicurs che nessun invidiava che il colono calscugnive risquindi al cont come colono e come sindic. Ben, ovevis di viodi la prudenza di quei homes. Nanche di me ti ue. Ue a son di quei sindics così sfegatats che ancora di chiappà decisions c'è nanche fevelà col plevan. A Moruz invece, quando che rivala circolar de prefetture sui chiangs, il sindic al mandà clama il cont, non par via che il cont alveve sedis tra chiangs e cicis. Il sindic non l'è nanche a pensà ai chiangs dal paron. E poi il Globar alveve tante di che robe che nessun saveve nanche troppe. Il sindic lo mandà clama non me par rispiet e par educazione. Il cont all'arrivà e il consei puntual lo spietave. Il sindic alleie la circolar dal prefet Gielplan, tornanti in daur sui accentos che la prima volta gli falava sempre. Par altri, quei che lo avevin a pratiche, arrivarono ad ores quasi tutti a capì che il prefet, constatat che un evore di chiangs aveva in la rabbie, al conseave di mettere su une buine tasse, con la speranza che così alessin srarinsi. Il consei si era dato d'ogni par decidi troppo. Appena finì, il sindical domandà perdono al con di velo disturbato perché monade a lì. Ma il Globar, a degnevul come cagliere, lo ringrazia lui invece e al declarare in maune volte che in ceca al podeve e in ceca al saveve agliere sempre pront a da une man. Po dopo, lui ci aspettare in la peraule dal paron sulla questione dall'ordin dal dì. Il cont, che di giovin agliere stati induti gli spars dal mon, al portave sempre fur faz e documenti. Sentì, al disè. Un caso come questo mi è tocchiato di rilevarlo in Giappone, proprio come qui, i chiangs plens di rabbia. E allora i giapponesi, che sono un evore più riflessivi di noi, e che spulzini infin cacciati in le cause più da pi dai fenomeni, e hanno tanto studiato e fastidiato per sore. e hanno esaminato e mettuto in prova centenari soglietti. E sono arrivati ad ora a capì la origine delle rabbie. Bene, se la causa fosse stata la mancanza di una tasse, i giapponesi avessero mettuto la tasse sui chiangs, che usal garantizio. Invece, al risultato che i chiangs avevano la rabbia per mancanza di cicis. Comprati di cicis, sparite la rabbia. Come ho visto di altri, al dice il conte. Ho visto di altri se si può obbligare a chioli cicis. In Giappone, per dire la verità, li san comprati si comuns. All'estate che ret che ricco al salvar il comune. Il conte al chiapa sul chiapiel e alle vie, come calfaseve sempre, per non influenzare con la sua presenza la libera decisione dei consigliers. Enrico al pote fa la sua proposta. La situazione di Sal è delicata più che in gardeare, ma so sin d'accordo e fedei la parte in fuori. Io, so seis de me, mi par che chi al va di cane il compromesso. Senti, invece di metti sulla tasse, non si metti, par vie che non zove a far passare la rabbia. E questa è la prima parte del compromesso. E cicis non si incombre. E questa è la seconda parte. E io vanno in pis al scomenzare a bergelà. E è ora di finire cui chiangs e cui cons. Tutto il Friuli alla di sapere che a Moruzzi fa c'è che si ul e non si va da ur né dai cons, né dai chiangs, né dai prefetti. Il consei arresta scaturito, ma nessun viarze bocche. Rico si sentà, avvilì. Al calcolavero mai di vele chiappate tal come don con le sue proposte. E più che altri, displaseve di vestrasat così malamente il soprin compromesso. Manco mal che si impensà di pratin di la votazione segreta. E allora lì si avvioduti il cur e il sentimento dei consigliers. Viva Rico, agli era scritto sugli schedis. Abbasso i chiangs, eccetera. Rico Macor al spietave aromai il cumià de colonie. Ma al passà San Martin e tutta le pulie. Si ha savut dopo che il conte aveva combinato di vendere gli soschicis di altri sbandis. Une peraulute di Viglisquete. Anche domani, condut che è la fiesta dal Spirito Santo, una messute svot e una funzionute in taviele e sise miese. La funzione grande e sarà in place sdis. Veso vedut cardo carul de ville di sot e che l'altri so compagni forest che son indaffarat a metti su un fregul di armature denande privative, perché il sior mai viudut e mai sentut calvinerà faus il sermon sulle svotazioni. O sintareis cerobonisve, parcardo e a farsa vado in benon che smes. Alla ce fa tutti gli sfiestis e anche i disdivore. C'è attaccato ai murs l'insui di chiarte, c'è a implantare baracchini per i comizis, c'è a portare or bandiere di tutti i colori. Parce che lui non è di nessun colore, dome dal color dal vin. Al lavoro è par cui che i pai di bevi. Al fasi arcs per sagris desvidis kentiator, all'implante i brears per sfiestis di bal, al chiate furgalis e festons pa' i sposalizis, al quarte il confenon des animis dai funerai, il ferar di studates processions, la bandiere tes manifestazions patriotiches, al fas la propaganda per tutti i partiti. Basta non slungia qualche chiartute di consumale, la di Canfin o la di queste viere e la di Baduscri. Anche l'ultim pitoc, l'ultim puor biat al pove alt di so, se no altri un pensier, una convinzione, une coscienze, un fregul di fede di une bande o di che altre. Cardo carul non la nuie, altri che la se, une set mostre, une set straquelade, une set croniche. Salvessi et animis dentri vie, li svendares tutti svot par un tai di zonte la di Baduscri. Par vie de set, alla fate schiampa la femmine, par vie de set alla lasat cresi lazaron si frus, par vie de seta la lasat morì di frezzo mari, par vie de seta l'estat più di una volta a sotette locande de preture e un tremese a udin de bande di sorelli llevat. Voi le so sentilo a porconà o a preà di profundis, paiai di bevi. Quelli su viodi lui a chiamina cui pi sparaier o portanta sacamule che il panzon di Zuli. Paiai di bevi. Quelli su scolta lui a chiantà bandiere rosse o giovinese. Paiai di bevi. Se gli è possibilità di bevi, lui us laude la massima. Us dà ragione in qualunque questione. Al dis tutto il mal possibile di quei che non us van a scuare. Us quarte sulla palma de man, alle sempre pronta fa us qualche servizi, netto sport, dretto stuar, lungo curto. Ma se non le ce bevi, o puoi disclopà, che lui non muove neanche un dei. La so politiche, la so religion, la so patrie, il so paradis, la so lez e la so scuole, a son dutis a me sede da fons dal boccare. Lui non sa noi altri, non cro noi altri, non si intrighe di noi altri, dome desmisuris di capacità, dal busul fin all'etolitro. Par altri, a pensare ben, cardo carul al mancul, al si contente di po. Andi altri splui ad al, tai uffici, te politiche, tai affars, ca fasin come lui, ma non si contenti di mie bocce. Avendo in l'anime condotti il quarp e il cerviel e la coscienza, ma si fa in paia chiar. Lui svelz, ma no più galanzumi. E con queste us doi la buine sera. Scherz di altri stims. Il monta le simpri monti. E come che di uè, enti i giovani di una volta a volevi divertirsi. Ma ad impezz, in quei teams, na era di sera il cine, il teatro, la radio, la televisione. Dui na lavin amurosà, era massa compromittente. Dui na volevin la fa la fila, era roba di frusse e di femmine. Na restava che la chiantappa la villa o a mettisi a fa dispies. E via allora tal scurda li contradis, a spaventai vecchius, a sclauda bancis davanti portons, a fa baiai chianse e chiantai giai prin d'allora. Ma una clapa di moscardin satian una notte combinato una di plui biela, tan biela che la voi cum ho contà. Doi vecchius abitavin in Clendis. Lui, Tita, conosciut par gnocis, un tipo magri, plet, e cunt un tic al quel che lo faceva trimà e chiacarà come un d'indiat. Ie, Maddalena, segalina, che aveva perduto tutti gli stos bielecis e gli svirtus di un timp, a eccezion della lenga, che esercitava volentir versi il son, in lunghi spregici sottosera quando calavin a taglietto. Avevevin i doi in una chiesuta. Al di là della strada avevin l'or e in un chianton di quest il gabinetto, plantato saldo su quattro pai, come che al voleva il costume in che volta. I nostri sfantassi, plens di morbin, in che notte passin proprio par l'or di gnocis, ai chiappi in successo e senza far rumor al quartin di pes sul quel Daniel. Gnocis all'era un tipo abitudinario. Ogni buinora, princa il cricassi il dì, aveva bisogno di falchi in premura. Enti in che dì, al tieve in prescia, al mezzo i bregon sa scur e a tast, al venga bas. Al traversa la strada, al vierce la quarta da lor, e fatti i soli si spas, a slunghia la man. Ma la man non incontra la cluca. Gnocis al resta boccia spalancata. Il cesso alle sparite. Passati il primo momento, il biaton pal torna in daura alla quarta da lor, par orientarsi e arrifas i si spas. Nuia da fa, il cesso non le plui. Allora quella voce più ingropata che mai al si metta vosà, Maddalena, Maddalena! La femmina si dismuove di sclop e sentendo la voce dal son veni da lor a va sul barcone. C'è esa diavolo di un omenat? A domanda. E dal scur la voce tremando ignocis. Maddalena, hanno le plu il necessario. Non stu po' calzetti, cervei stu, rispuint che altra. E gnocis, ti giuri canale, veniu con tu un al dilusor che hai perdut l'olma. Maddalena ha impio un feralut e i doi a cir indicai di là palort. Ma nai nuia di fa, il necessario alle sparite. Immaginai ti doi vecchius c'è mut che son restas e c'è mut che han passato il res della notte. Quando cal vendì, alle inclendis dutto un susù. La novitata fa spresta corri di chiesa in chiesa e dutti a venire sul puesta iodi e a fa qualche osservazione che fa si imbestiasse in plui il biat gnocis. avendo anche i quattro che si sono offrisi di là a recuperare loro il cesso, e quando che tornino dopo poco, portanti il gabinetto alto come un catafalco, la confusione per la contrada è al colmo. In tutti Anton gnocis almeno al chiaf e al brundula. Ai miei timps asiveva più rispied dai vecchius. Il mond come al va in rovina, al va in rovina. Parvivi, parvivi si scugne viodi, raviodi e proviodi, strolega, pensa su e bazilà, movisi, messedasi e sgarmetà, dai sot, strusiasi e sgobà, smurtà, tirà e tigni su, sta salz, tigni dure e nomolà, qui sta paradogli e tigni con, glotimar, spudadolz e mastiai, onzi il chiar, da seon e lauda la massime. Spiula sul so, raspa la chialderie e rischiela il fros. Tigni, scortea e tasè, stropa busis, taponà fresuris e siara clostris. Mai cinquantà, mai fa careghete, mai rompicitis. Voltasi in daur, chialasi in bande e la indenan. Disgota la tace, le calplat, mangia un cicin e auf polente. Alza il cul, disbassa la crucchie, mena gli sciarculis, fufigna sul serio, sbisia pardabon e dai di come don, sberdeasi, rangiasi e chiosolà, pettasot, distrigasi e speseà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 93esima trasmissione dedicata agli emigrati a cura di Ermete Pelizzari.